La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Piramo e Tisbe. Un amore in fuga. Di Ovidio. Da Le Metamorfosi. Nella favolosa Babilonia dei tempi antichi non c'erano solo i palazzi dei re, coi loro giardini lussureggianti, irrigati da corsi d'acqua invisibili e abbelliti da fontane il cui zampillo descriveva meravigliose figure. Non c'erano solo le ricche dimore dei funzionari e dei mercanti, con giardini più piccoli ma pur sempre meravigliosi, o le alte mura di cinta, sempre sorvegliate dai soldati. Dall'altra parte dell'Eufrate, il fiume che attraversa la città, c'erano anche tante case semplici, modeste, l'una attaccata all'altra, da dove i comuni mortali uscivano ogni giorno per recarsi al lavoro nei campi o nelle botteghe, e dove tornavano la sera per riposarsi, un po' come nelle nostre città moderne. In una di queste case abitava un bellissimo giovane che si chiamava Piramo, alto, forte, con due splendidi occhi scuri, neri e folti capelli neri, che lavorava nella bottega del padre, un falegname. Nella casa vicina c'era una fanciulla di nome Tisbe, che Piramo aveva notato solo da poco tempo, perché era da appena un anno che la sua famiglia era venuta ad abitare lì. Non solo era più bella di tutte le ragazze del quartiere, ma aveva anche una grazia particolare che la faceva sembrare una principessa, nonostante fosse figlia di un povero contadino. I suoi occhi erano del colore dell'Eufrate, quando alla luce dell'alba non sapresti dire se sia blu, se verde o se è viola. Insomma, bastava vederla per non dimenticarla più. Passa un giorno, passa un altro, e quella bella fanciulla colpì talmente il cuore di Piramo che una sera, poco prima di addormentarsi, egli si disse: «Questa è la donna che ho sempre sognato. Sarei disposto a dare tutto l'oro del mondo per conquistarla». Detto, fatto, e cominciò a corteggiarla. Correva a prendere l'anfora dell'acqua perché non si affaticasse, povera piccina, a portarla. Per lei raccoglieva bellissime rose perché non si pungesse nel coglierle lei stessa, e cominciò a mandarle messaggi d'amore. Quanto a Tisbe, per parte sua non le dispiaceva affatto di essere corteggiata da un così bel ragazzo, e ricambiava volentieri i suoi sguardi per fargli capire che anche lei, insomma, lui le piaceva, ecco. Ma come purtroppo capita a volte, a quel punto cominciarono i problemi. «Hai visto? Hai visto?» disse un giorno il padre di Piramo a sua moglie. «Come ha messo gli occhi su quella ragazza? A me però questa faccenda non va per niente bene. Stai a vedere che con la sua bellezza ce lo porta via. Il nostro Piramo, buono com'è, ma che vita lo aspetta con la figlia di un povero contadino? No, non deve assolutamente succedere». Quanto ai genitori di Tisbe, l'avevano promessa in sposa 2 anni prima a un loro lontano parente, che non era ancora arrivato a Babilonia. «Per tutti gli dèi!» esclamarono. «Che cosa si è messa in testa nostra figlia? Che cosa diciamo a Nino, adesso che ormai gliel'abbiamo promessa? Quello è capace di offendersi a morte e di negarci l'aiuto che ci aveva promesso». Insomma, i genitori di entrambi non ne volevano proprio sapere di quell'amore, come se fossero loro a dover decidere in una faccenda così personale. Così ci ripaghi, eh? Disse un giorno il padre di Piramo. Dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto per te, vuoi prenderti la figlia di un contadino che quasi non ha di che sfamare i suoi figli, e io che ti voglio passare la mia bottega perché tu possa avere una vita tranquilla. Se sposi lei, finirai col lavorare come un cane, per mantenere tutta la famiglia. Povera Tisbe, non meritava certo questo tipo di considerazioni, ma non meritava neppure di essere trattata in quel modo dai suoi genitori, i suoi genitori, e infatti non solo continuavano a ricordarle che doveva sposarsi con una persona di cui sapeva solo che si chiamava Nino, e che aveva 20 anni, dico 20 anni più di lei, ma le avevano anche imposto il più assoluto divieto di vedere quel giovanotto, Piramo, che le piaceva tanto. Ma povero anche Piramo, che a furia di sentirsi ripetere quanti sacrifici avevano fatto i suoi genitori, un giorno, esasperato, era sbottato. Se continuate così, ve la brucio, quella maledetta bottega. Che hai detto? Ve la brucio! Ma perché? Perché ve la brucio? E si era chiuso nel suo assoluto silenzio. Il suo silenzio, però, non gli pareva una forma di protesta sufficiente. Perciò, una mattina, si era rifiutato di andare in bottega ad aiutare il padre, dicendo che non si sentiva bene. Voleva starsene da solo e pensare come risolvere il suo problema. Girava per la sua stanza come un leone in gabbia, cercando la forza per affrontare il padre e dirgli chiaro e tondo di non intromettersi più nelle sue scelte. Ma, mentre era assorto in questi pensieri, si accorse che nella parete della sua stanza che divideva la sua casa da quella dove abitava Tisbe c'era una fessura, una piccola, minuscola fessura. Si accostò e provò a chiamare la ragazza, sperando che sentisse. «Tisbe! Tisbe! Mi senti? Mi senti? Sono io! Tisbe! Sono io, Piramo!» Nulla. Riprovò un po' più forte e quando ormai stava per lasciar perdere sentì alcuni sassolini che cadevano dalla sua parte. Tisbe non solo aveva sentito, ma si era decisa anche ad allargare quella fessura, servendosi di un coltello. Parlarono a lungo, promettendosi a vicenda che non avrebbero mai obbedito ai loro genitori, che volevano impedire il loro amore. Poi coprirono la fessura, che ormai era diventata un buco, con un drappo di lana e si diedero appuntamento per il giorno dopo. Andarono avanti così per alcuni giorni. Mentre tutti dormivano, i due innamorati si avvicinavano a quel foro che avevano ingrandito fino al punto di potersi guardare e toccare con la mano, e passavano ore intere a parlare notti e notti, ma più quel foro si allargava, più il loro amore cresceva, finché un giorno Tisbe disse: Piramo mio, amore mio, non possiamo accontentarci di toccarci la mano o di spiarci da un foro, guardarci negli occhi. Io desidero abbracciarti, baciarti, accarezzare i tuoi capelli, stare davvero con te. Se il prezzo da pagare per stare insieme è quello di scappare, scappiamo. Ma cosa dici, Tisbe? Che dici, scappare? Rispose Piramo stupito. Ma ti sei ammattita? Io? Ammattita? E forse hai ragione, Piramo. Sono proprio matta. Eh sì, sono impazzita, ma se non scappiamo, passeremo la vita a sognare l'amore che non abbiamo mai avuto, a odiare noi stessi e tutti quelli che ci stanno intorno, disse Tisbe. Hai ragione, Tisbe, ma scappare non è così semplice. Ci cercheranno, si dispereranno, e poi E dove andiamo? Ah, io non so come la pensi tu, ma per quanto mi riguarda, che si disperino pure. Mi hanno promesso a un vecchio parente che non ho mai visto e che non voglio neppure vedere. Un vecchio! E poi lasceremo loro un messaggio dicendo che siamo disposti a tornare se accetteranno il nostro amore. Sì, sì, ma dove andiamo? Chiese ancora Piramo. Io non conosco nessuno. Ma come? Mi hai parlato tanto di quel tuo cugino. Ah, sì, quello che vive a Susa. Quello cui hai salvato la vita quando ero un bambino, facendo scappare un aspide che stava per morderlo. Sì, è vero. È vero, lui... Beh, lui potrebbe darci una mano. È generoso e saprebbe certo capirci, ma... Tisbe, Susa è lontana. Piramo esitò un istante e poi aggiunse. Dobbiamo fare le cose per bene, eh? Per bene, se vogliamo scappare. Allora sei d'accordo, amore mio? Gli chiese Tisbe. Ho una gran paura, ma sono d'accordo, rispose Piramo. Se tu sei stata promessa a un vecchio parente, io non so neppure chi abbiano in mente di farmi sposare. E comunque il mio amore sei tu, e nessun altro, Tisbe. Oh, Piramo, Piramo, così mi piace sentirti parlare. Vedrai che ce la faremo. C'è una grande pista da qui a Susa, su cui passano molte carovane di mercanti. Vedrai che qualcuno ci darà un passaggio. Ho il cuore in subbuglio, ma sento che tutto andrà bene. Passarono un po' di giorni e intanto due innamorati preparavano segretamente la loro fuga. Piramo era tornato in bottega, facendo finta di niente, giusto per potersi guadagnare un po' di soldi per il viaggio. Te la sei dimenticata, quella poveraccia, finalmente! Gli disse il padre una mattina, mentre lavoravano. Era bella, capisco. Ma quante noie ti sei evitato, figlio mio, con quella famiglia di disgraziati! Quando stendono i panni, l'hai visti? Sono tutti buchi, bucati! E quando cucinano, non ho mai sentito l'odore della carne uscire da quella casa! Credo che non abbiano nemmeno i soldi per pagare l'affitto, regolarmente, vedrai. Una volta o l'altra va a finire che li buttano fuori. E d'altra parte, quando uno è un poveraccio, non deve venire a vivere a Babilonia. O che se ne sia in una tenda, come i nomadi. Ma non preoccuparti. Uno di questi giorni ti presento un mercante di legname che ha una figlia. Pare molto graziosa. Sì, bisogna pur pensare al futuro, dopo tutto, no? Piramo, lì per lì, avrebbe voluto tirargli in testa il pezzo di legno su cui stava lavorando, ma si trattenne per non rovinare il suo piano. Pensò che suo padre, anche se guadagnava più del padre di Tisbe, era più povero del miserabile degli uomini. Sentirlo ragionare in questo modo lo faceva vergognare di essere suo figlio. Rimase zitto e continuò a lavorare, ma tra sé pensò: voglio proprio vedere cosa dirà quel mercante quando scoprirà che il promesso sposo di sua figlia è scappato con la figlia di un contadino. Ma evidentemente neanche i genitori di Tisbe sapevano che cosa fosse l'amore, se volevano che la loro figlia sposasse un loro parente, tanto più vecchio di lei, in cambio di non si sa quale bene o quale aiuto. E chissà che tipo doveva essere questo Nino per accettare una simile proposta. Passarono ancora alcuni giorni, finché arrivò la notte stabilita. Il cielo era terso e pieno di stelle. La luna crescente sembrava una piccola falce e a Piramo e Tisbe venne in mente che era come un segno del destino. Hai visto? Disse Tisbe. Non è un caso che la luna questa notte abbia quella forma. Assomiglia a un coltello ricurvo, quello con cui taglieremo i lacci che ci tengono prigionieri. Sì, amore mio, il cielo e gli dèi ci stanno dando la loro benedizione. La luna di questa notte è un segno della loro benevolenza. E poi guarda, ha la forma del coltello che porto con me, per difenderci in caso di bisogno. E le mostrò un lungo coltello sfilandolo dalla cinta. Avevano preparato ognuno un fagotto con qualche indumento, un po' di cibo e i soldi che avevano potuto raggranellare. Aspettarono che fosse notte fonda in modo da essere sicuri che tutti dormissero, e poi, senza far rumore, se ne andarono. Prima uscì di casa Tisbe. Infatti, l'accordo era che la fanciulla aspettasse il suo innamorato a una fonte che si trovava vicino a un gruppo di palme, fuori delle mura. Piramo sarebbe arrivato un po' dopo per evitare che le guardie si insospettissero vedendoli uscire dalla città insieme. Tisbe correva leggera leggera verso la sua libertà. Le guardie non fecero caso al suo passaggio, un po' perché erano mezze addormentate e un po' perché il loro compito era soprattutto quello di fermare i convogli che entravano perché pagassero il dazio alla città o di avvistare i nemici. Tisbe era quasi arrivata alla meta, inebriata dai profumi di quella notte, e già pregustava l'acqua fresca che avrebbe bevuto alla fronte, ma anche i baci che avrebbe dato al suo Piramo quando all'improvviso vide una leonessa. Era enorme e nervosa e tutta sporca di sangue, perché aveva appena azzannato una vacca che stava riversa per terra, morente. La belva era impegnata a trascinar via la sua preda, quando improvvisamente si arrestò, accorgendosi della presenza di Tisbe, forse per il rumore che aveva fatto, forse per l'odore che sprigionava la sua persona. Vedendo la belva, Tisbe indietreggiò, atterrita, e sfruttando la momentanea incertezza della leonessa, che non sapeva se saltarle addosso o continuare a trascinar via la sua preda, di corsa raggiunse una grotta, poco distante, la cui entrata era parzialmente ostruita da alcuni grandi massi. Strisciò tra due di questi e si appiattì in un punto dove la leonessa non poteva raggiungerla. Passarono alcuni secondi, lunghi come un'eternità. Intanto la fanciulla, immobile e silenziosa, sentiva solo il battito del proprio cuore e pensava, terrorizzata, che non c'era modo di avvertire Piramo del pericolo. Oh, speriamo che un contrattempo gli impedisca di venire. Sono stata imprudente. Oh, non me lo perdonerò mai, si diceva sentendosi crollare il mondo addosso. La leonessa intanto si era decisa ad abbandonare la vacca appena uccisa e in pochi balzi si era avvicinata all'entrata della grotta, cercando dove si fosse nascosta la sua nuova preda, ma all'improvviso fu attratta dall'odore del velo che Tisbe, correndo, aveva perduto. Gli mise le zampe sopra e lo frugò col muso, imbrattato di sangue. Poi, non trovandovi nulla da mordere, tornò dalla vacca, finì di trascinarla dietro un cespuglio e cominciò a mangiare, indisturbata. Nel frattempo, ecco arrivare Piramo. La leonessa non gli fece neppure caso, concentrata com'era sul suo ricco pasto, ma lui fu colpito dal rumore che faceva mangiando e la intravide nascosta dietro un grande cespuglio. Un brivido di terrore lo percorse per tutto il corpo. Cercò con lo sguardo la sua Tisbe, ma non la trovò. Si girò e vide per terra il sangue che la vacca aveva lasciato sul terreno. Tisbe, no, non è possibile. Dei del cielo, fate che non sia così. Darò io la mia vita, se questo è il prezzo che chiedete perché sia salva. E così dicendo, indietreggiò, senza sapere che cosa pensare, perché non riusciva a vedere con esattezza quello che succedeva dietro quel cespuglio. E purtroppo incespicò nel velo che Tisbe aveva lasciato cadere nella sua corsa verso la grotta e con orrore vide che era imbrattato di sangue. No! No! Non può finire così il mio sogno! Dai! Siate maledetti! Voi che mi avete gettato nella disperazione! Ma se vi siete presi la sua vita, ora prenderete anche la mia! Non aveva bisogno di altre prove per capire che tutto era finito, che Tisbe era morta. Allora, senza più esitare con gli occhi spiritati, estrasse il coltello che aveva portato con sé e si trafisse con tutta la sua forza al cuore. Cadde, senza neppure un gemito. Tisbe, intanto, era uscita dal suo nascondiglio, ormai certa che la leonessa se ne fosse andata, e si diresse verso la fonte, sperando che per un miracolo Piramo non fosse mai arrivato in quel luogo e intenzionata a tornare indietro per andargli incontro, ma aveva fatto solo pochi passi quando lo vide, riverso a terra, che invocava il suo nome negli ultimi istanti di vita. Piramo, Piramo nonno, Piramo perché, perché, perché l'hai fatto? Oh dei dei, maledetti, perché non mi avete dato la possibilità di avvertirlo? Perché non gli avete dato un segno per fargli capire che non ero morta? Oh dei dei, cattivi! Poi, rivolgendosi nuovamente a Piramo, ma se tu muori, amore mio, io non posso fare altro che seguirti perché la mia vita non ha più senso senza di te. Oddio! E sfilato il coltello dalle mani del giovanotto, lo puntò al cuore e si trafisse anche lei, cadendo sul corpo del suo innamorato e abbracciandolo con le ultime forze che le rimanevano. Ma questa triste storia non finì così. Quell'amore commosse sia gli dei che i genitori dei due giovani sventurati. Gli dei vollero che il loro esempio fosse ricordato per sempre da tutti gli uomini che sarebbero venuti dopo di loro. Così, da quel giorno, le bacche del gelso, una pianta che cresce di frequente in quelle calde regioni, si tinsero dello stesso colore del loro sangue innocente. E ancora oggi le vediamo scure. Quanto ai genitori, appena seppero che fine terribile avevano fatto i loro figli, furono presi dal rimorso e caddero nella più profonda disperazione. La furia che li aveva assaliti quando avevano scoperto la fuga si trasformò in dolore straziante, e le ragioni degli uni, un matrimonio di rango, o quelle degli altri, l'assurda promessa fatta al loro lontano parente, d'un tratto apparvero loro una vergogna. Maledissero se stessi per aver vietato quell'amore innocente. Si incontrarono, si abbracciarono, si sostennero nel comune dolore e giurarono che se avevano ostacolato Piramo e Tisbe mentre erano vivi, avrebbero almeno esaudito il loro desiderio adesso che erano morti. E così Piramo e Tisbe ebbero sepoltura insieme. Infatti furono messi nella stessa tomba. Ora, per sempre, i due innamorati potevano amarsi. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net